Buonasera, dunque questa sera seconda proiezione del film Di vita non si muore, vi devo dare soltanto due o tre indicazioni classiche. Siamo al cinema, quindi non si fuma, telefoni spenti, per cortesia verificate, evitate di accendere gli schermi che riflettono. Poi finite le menate, la cosa bella è che qui con noi stasera c'è la regista Claudia Cipriani, che invito a venire. Che ci tiene molto, ci teniamo molto anche noi a essere presente, quindi ora lei ci dirà delle cose, poche, piccole cose, e poi dopo la proiezione ci sarà la possibilità di parlare, di discutere, di intervenire, di fare domande, eccetera. Quindi parola a Claudia. Grazie Paolo. Allora, grazie a tutti per essere venuti, grazie a Conchetta per avermi dedicato ben due serate. Sono molto contenta di proiettarlo qui, questo film che è completamente autoprodotto e anche autodistribuito sta avendo una doppia, diciamo, distribuzione, circuitazione, come si dice, nei cinema tradizionali e negli spazi sociali autogestiti, che è proprio una scelta che ho voluto fare fin dall'inizio. E ormai siamo a quasi 2 mesi e mezzo di tour, quindi insomma... Ho una fotografia abbastanza ampia delle reazioni, sono molto contenta. Io non dirò molto perché ovviamente vedete il film e poi sarò qui alla fine, quindi se avete delle domande, delle curiosità, anche delle riflessioni da fare, sono a vostra disposizione. Vi dirò solo perché questo film documentario si chiama Di vita non si muore, che è... tratto Di vita non si muore è tratto da un verso di una poesia di Carlo Giuliani e penso che sia stato molto azzeccato questa scelta, perché soprattutto anche in questi mesi mi sono resa conto che è stata una buona scelta per me decidere di parlare di vita, perché come voi sapete Carlo Giuliani è conosciuto in Italia e anche fuori dall'Italia per la sua uccisione, ed è importante ricordare appunto quell'uccisione e il contesto in cui è avvenuta, però secondo me era importante concentrarsi invece sulla vita di Carlo e poi dopo, se volete, ne discutiamo anche del perché secondo me ha senso parlare di... Come detto prima della proiezione, c'è la possibilità di fare due chiacchiere, di parlare, chiedere delle cose alla regista Claudia Cipriani, e c'è anche qui con noi Ernesto Spazzali. E niente, ovviamente questo film, questo docufilm può suscitare moltissime emozioni, fa rivivere dei momenti difficili, forti, che insomma hanno segnato veramente uno spartiacque prima e dopo Genova. Non mi sto a ripetere, ma c'è qualcosa che vorrei cominciare a introdurre come argomento per fare così sentire il parere, l'idea di Claudia rispetto a questa cosa detta un po' all'inizio del simbolo. Io quando ho visto il film la prima volta non sapevo assolutamente nulla della costruzione, nulla proprio, e mi ha colpito il fatto di non vedere una celebrazione di un'uccisione, ma delle celebrazioni di una vita. E la difficoltà con cui questa cosa è stata attuata. E poi un'altra cosa a cui chiedo Claudia di dirci qualcosa è proprio questo montaggio dal punto di vista proprio cinematografico, come è arrivato un montaggio di questo tipo, che io trovo straordinario per alcuni passaggi e allo stesso tempo difficile da capire. È la terza volta che vedo il film e cominciano a chiarirsi molto meglio le cose. Magari sono io un po' difficile, ma come vedere delle altre cose ogni volta, quindi do la parola a loro, grazie. Parliamo del simbolo, oltre il simbolo. Allora, sì, infatti, un po' come accennavo all'inizio, scusate, come dichiaro nel film, avevamo proprio voglia di andare oltre il simbolo, cioè credo, spero che questo film ci dica proprio che non abbiamo bisogno di simboli, di miti, ma di guardare, raccontare la vita di persone che fanno una vita particolare, delle scelte con coerenza, con coraggio, e quindi penso che sia importante guardare questo. Poi devo dire che ormai sono tantissime le proiezioni che abbiamo fatto, mi ha fatto molto piacere che i ragazzi giovani, anche molto giovani, mi hanno detto: ah, noi avevamo sempre questa idea un po' di Carlo Giuliani come una specie di Che Guevara, un piccolo Che Guevara, invece il fatto che venga restituita questa sua appunto umanità e vita appunto da ragazzo, e ci ha restituito molta più empatia, no? Ce lo rende più vicino, e quindi penso che sia poi anche quello che volevano fare i suoi amici quando è morto e hanno cancellato la scritta in Piazza Limonda scrivendo Piazza Carlo Giuliani, virgola, ragazzo. Perché infatti Carlo Giuliani è stato sempre molto strumentalizzato e tirato per la giacchetta, perché c'è chi ne ha voluto fare un violento, chi un tossico panca bestia, chi un militante duro e puro che si martirizza per la causa. Quindi in realtà non era queste cose, come avete potuto vedere. Io ho cercato di restituire un po' quello che poteva essere Carlo, ma volutamente ho lasciato comunque aperte anche delle interpretazioni, ciascuno poi vive il suo Carlo, nel senso che ho ricostituito questo mosaico attraverso tutte le testimonianze e i racconti che ho raccolto, e però mi piace dire che Carlo rimane un po' in quegli interstizi, nel senso che mi sembrava anche rispettoso nei suoi confronti, proprio perché, come dichiaro all'inizio, Carlo sfugge via, no? È come quando all'inizio mi avevano detto, Tatanka, Antonio mi aveva detto: ma tu non riuscirai a raccontare Carlo, sarà difficilissimo perché ognuno vuole raccontare il suo Carlo, no? E quindi io un po' ho mantenuto questa cosa, nel senso che poi alla fine ci sono questi diversi racconti, queste diverse cose. Poi non so se Ernesto, prima di rispondere alla domandona sul montaggio, non so se Ernesto vuole dire qualcosa su questa cosa del ragazzo, perché tra l'altro se è riuscito appunto, se sono riuscita nell'intento, è davvero anche molto grazie a Ernesto per quello che ha fatto, cioè come lavoro proprio, nonostante, come dice lui, non abbiamo cercato di imitare, ricostruire Carlo, però questo ve lo dice lui. Sì, questa, ciao, è una cosa a cui tengo tanto, nel senso che diciamo che dal film traspare quanto la vita di Carlo sia stata una vita sicuramente fatta di tanti punti di vista, una vita, sono tante vite poi raccontate, cercate di sistemare, poi forse nessuna è mai alla fine tanto chiara, però insomma si vedono tanti aspetti e tanti punti narrativi, e quindi sì, questa è una cosa che ci tengo a dire subito, cioè non c'è la pretesa di personificare una persona, ecco, la vita di Carlo, nel senso che io penso che in questo lavoro, sia da parte mia per quello che ho fatto che da parte di Claudia e Nicolò e che ha partecipato, c'è tanto rispetto nei confronti di una vita, e che quindi in quanto tale è difficile da raccontare, e quindi secondo me questo è una cosa che va detta subito in chiaro. Rispetto alla questione del simbolo, io mi trovo molto d'accordo con quello che ha detto Paolo, nel senso che guardandolo anche poi da spettatore, nonostante avessi ovviamente partecipato alle riprese, letto le sceneggiature, è una delle cose che mi ha colpito di più, anche perché per me, come per tanti altri nati dopo il 2001, quindi che insomma siamo venuti a conoscenza dei fatti per insomma attraverso terzi, Carlo effettivamente rischiava di diventare un martire. Io penso che chi parla con questo film, o almeno le persone a cui parla questo film, non hanno bisogno di un martire per tutti quei discorsi, quelle cause che sono state quelle dei Neoglobal, eccetera. Non c'era bisogno di un martire quando erano lì, per ricordarlo adesso a maggior ragione. Quindi ecco, in questo secondo me ha colto un punto importante questo lavoro, sì. Allora, per venire alla domandona, era l'applauso a te. Allora, io ho la fortuna, sfortuna, necessità, virtù, non lo so, che molti dei miei lavori li scrivo, li giro, li monto. Quindi ormai ho questa deviazione per cui quando giro qualcosa ho già, mi viene già in mente come vorrei montarla, quindi è un rimando continuo tra il girare, montare, montare, girare, quindi sono abbastanza... non so, Ernesto mi conosce, a volte sono come in uno stato di ipnosi e infatti con Nicolò ogni tanto gli dico zitto perché magari mi viene a dire delle cose e sto pensando, perché poi la bellezza anche di aver fatto sempre tanto documentario è che mi lascio sorprendere a volte per forza di cose, perché essendo che non è appunto una produzione hollywoodiana dove è tutto studiato nel dettaglio e quindi dobbiamo cambiare, magari abbiamo deciso di fare una ripresa in un certo posto in un certo momento e non si può e quindi dobbiamo cambiare, quindi devo cambiare un po' lo schema, l'idea che avevo in mente, però questo può succedere comunque, perché magari arriviamo in un posto, Ernesto lo sa, dobbiamo girare una cosa, ho detto adesso la giriamo qua, poi invece vedo che c'è una situazione che mi piace di più, allora cambio di nuovo e lì sono lì che penso nella mente, ah, perché questo secondo me può essere montato così con l'altro, quindi è un continuo rimando. E più che in fase di scrittura, ed è bello per quello, no, girare. Poi in questo lavoro devo dire veramente, essendo che l'abbiamo davvero fatto solo col crowdfunding, e c'erano pochissime persone che lavoravano, io mi sono occupata a 360 gradi praticamente di tutto, dalla preproduzione alla scrittura, al girato, al montaggio, alla promozione, quindi, però è utilissimo davvero, perché comunque si imparano un sacco di cose. E per quanto riguarda il montaggio, già in fase di scrittura sapevo che sarebbe stato molto faticoso, perché come diceva anche lo spettatore ieri, che ho veramente apprezzato molto la sua riflessione, la sua domanda, c'era uno spettatore ieri qua che ha detto ci sono tantissime, anzi lo dico, mi autoincenso, no, perché è stato veramente bello quello che mi ha detto. Mi ha detto: a me è piaciuto tantissimo il fatto che ci sono così tante tracce diverse, narrative, linee appunto di racconto, e secondo me si intrecciano tutte benissimo e alla fine, nonostante ci siano più strati, però viene fuori una cosa composita. E io ho detto grazie, perché era proprio quello che volevo, cioè nel senso che poi appunto, visto che come avete notato appunto guardando il film, ci sono tante cose che vengono raccontate a tanti livelli, cioè c'è la vita di Carlo dall'infanzia fino all'uccisione, e poi c'è però anche il contesto storico entro cui questa vita si dispiega, poi ci sono le ultime giornate di Carlo, che sono quelle in cui noi lo seguiamo nei vicoli mentre lui è a Canotta Bianca, e c'è Carlo stesso che parla con quegli interludi in cui lo faccio parlare attraverso le sue poesie. Quindi insomma tutto questo andava un po' legato insieme, e da una parte mi piaceva far scorrere parallele queste diverse tracce e poi però trovare il modo in cui si intrecciassero, per cui per esempio anche quando il racconto si apre alla finestra più sul contesto storico-politico, questo è quasi sempre dettato da qualche episodio che riguarda la vita di Carlo, e quindi c'è questo continuo rimando, no, alla, come diciamo anche nel film, alla storia con la S minuscola, alla storia con la S maiuscola, che si inseguono insomma. E poi ho cercato però ovviamente di allora, da una parte volevo col montaggio fare una cosa eterogenea, quasi una centrifuga in cui lo spettatore si perdesse un po', perché doveva rappresentare la ricchezza della vita di Carlo e anche del movimento, cioè che è veramente piena di cose, di fatti, di suggestioni, e quindi mi piaceva spaziare attraverso stili, formati diversi. Però poi avevo bisogno che lo spettatore non fosse troppo disorientato, e quindi ci sono dei rimandi che io do allo spettatore per aiutarlo a navigare in questo viaggio di cose diverse, di generi diversi. Per esempio appunto come dico, quando ho fatto le riprese di finzione relative agli ultimi giorni di Carlo, e noi seguiamo Ernesto con una camera a seguire per Genova e alla Canotta Bianca, quello è uno stile particolare fatto appunto con una steadicam molto fluido, l'immagine è molto aperta, è in 4K, c'è molta luce, e quindi quando invece c'è la finzione che riguarda la sua adolescenza, gli anni precedenti, invece si restringe il formato, diventa il 4 terzi che si usava in quegli anni, negli anni 90, anche lo stile è un po' quello che si usava in quegli anni, il modo di girare, e c'è anche una color correction particolare che è come per dire allo spettatore, ecco, siamo qui, cioè siamo tornati qui. Poi ovviamente poi ci sono le poesie a cui ho voluto dare invece proprio anche a livello visivo una poesia, cioè nel senso di non volevo essere retorico didascalica rispetto a quello che veniva detto, ma dovevano essere secondo me degli interludi, come dicevo prima, quasi onirici, no? Rispetto alle poesie. Mi piaceva che lo spettatore poi si concentrasse sulle parole di Carlo che vengono lette da questo attore di teatro che secondo me guida un po' lo spettatore, perché ha una voce anche molto roca, anziana, e quindi anche perché quelle poesie sono scritte da un ragazzo, a volte aveva 16 anni quando le scriveva, però sono molto mature, quindi trovavo che quella particolarità, cioè quel dargli la voce così cavernosa un po' di questo anziano saggio potesse funzionare. E quindi questo, insomma, nel senso, ho cercato poi ovviamente, e poi c'era anche il materiale ovviamente di repertorio d'archivio di quegli anni da inserire e contestualizzare, e appunto aprendo, come dicevo prima, finestre, richiudendole e giocando anche un po', perché poi io, visto che mi sono dovuta smazzare tutto il lavoro di archivio, che non lo auguro a nessuno perché è una palla infinita, si guardano ore e ore e ore prima di trovare una cosa, quindi quando trovavo, non so, tipo quando c'era la sequenza sul consumismo e poi c'è quella pubblicità americana col gallo nel pollaio, ho detto questa la voglio, anche se costa un casino, perché cioè io mi devo divertire anche mentre monto, cioè guardo, sono la mia prima spettatrice, cioè a volte quando mi rendo conto che è un po' palloso, che mi sto annoiando io, dico se mi annoio io, cioè. Quindi è per quello che ho voluto anche un po' giocare anche con i collage, con le fotografie, senza ovviamente dargli un ritmo troppo accelerato, frenetico, però cercando di rendere tutto anche un po' divertente, perché poi Carlo era divertente, cioè era veramente un ragazzo divertente, ironico, e quindi volevo rendergli omaggio anche ogni tanto facendo queste contrappunti un po' così divertenti. Ma scusate, ho parlato troppo. Prima di passare alla parola a chi vuole intervenire, volevo solo ricordare che sia la serata di ieri che questa abbiamo chiesto una sottoscrizione all'inizio, all'ingresso, perché al tempo in cui avevamo deciso di proiettare il film per i fatti di Budapest, famosi fatti di Budapest, Gabriele si trovava ancora agli arresti domiciliari, e ovviamente sappiamo che invece Ilaria Salli si trova ancora in quella situazione, per cui buona parte della sottoscrizione, oltre a aiutare un po' la realizzazione postuma del film, diciamolo, perché il film non ha avuto ancora coperto, se abbiamo capito bene, le spese, però fa niente. Diciamo, volevo dire che questi soldi verranno donati al sostegno di Gabriele e di Ilaria Salis. E poi se ci sono delle domande. No, una cosa fuori contesto. Sì. Tu hai degli autori cinematografici? Questa domanda ho detto prima o poi qualcuno me la farà, cazzo. No, non sono preparata. No, allora no, ti dico no, io non ho, cioè nel senso mi piacciono dei film e a volte di alcuni autori magari mi piacciono molto dei film e non altri. Poi io sono molto amante del documentario, ho dei miei documentari riferimento che guarderei milioni di volte, per esempio mi piace tantissimo Bombay Beach di Alma Harrell, che non conosce quasi nessuno, ma se lo trovate guardatevelo, è bellissimo. Certi documentari di Herzog, per esempio Grizzly Man, mi fa impazzire. Poi parlavamo prima della civica, Silvano Cavatorta, quando facevo i corsi serali ci portava a vedere tutta la storia del documentario, mi ero innamorata di Wiseman, poi l'ho odiato, poi invece l'ho recuperato di nuovo e col film della box, sulla box mi sono rinnamorata di nuovo. Non ci sono dei registi particolari che adesso dovrei veramente pensarci, infatti questa risposta me la dovrò preparare perché prima o poi me la rifaranno. Però per esempio l'altro giorno che più o meno una persona, mentre aspettavo che finisse il film, stavo bevendo una birra e parlavamo delle cose, mi è venuto in mente che per esempio, adesso la lancio lì, se mi dicessero vuoi fare l'assistente, l'aiuto regia di qualcuno, allora ho pensato che forse mi piacerebbe farlo di Peter Weir, perché lui fa film sempre diversi. Sempre diversi, Picnic a Hanging Rock, Master and Commander, cioè Green Card, film molto molto diversi l'uno dall'altro. Mi piace questa cosa che sperimenta sempre, non si ripete mai. Adesso non so, perché mi veniva in mente perché stavo pensando, vorrei lavorare con qualcuno che non fa sempre lo stesso film più o meno, senza voler offendere nessuno. Quindi non ho risposto alla tua domanda, però perché è un po' come quando chiedono che musica ascolti, aiuto, no? Cioè, vabbè, mi preparerò. Gli stessi suoi, uguale. Non lo so, sinceramente anche a me mi coglie impreparato con questa domanda, sì, mi è un po' ansiogeno, non lo so, ci penso un attimo, poi se mi viene tu lo dico. Sì, no, infatti, ma bisogna prepararsi perché è vero, è una domanda pertinente, perché poi cioè, uno dice ma sei dei punti di riferimento, quindi no, appunto, posso pensare ai film che mi sono piaciuti ultimamente, parliamo fuori dei film che mi sono piaciuti, perché poi ho dei gusti molto difficili, veramente è raro che dica capolavoro, cioè sempre più, forse è una questione di invecchiamento, quindi uno invecchia e diventa sempre più un po' scontroso con i gusti difficili su tutto, quindi ti dico due cose io, poi anche Ernesto, perché io sono veramente molto contenta, davvero, questa è una cosa che mi riempie proprio di soddisfazione, perché io avevo un po' come pubblico ideale anche quello dei giovanissimi, e quindi vedere che a loro piace questo film mi solleva, perché avevo molta ansia rispetto a questa cosa. E ti dico che in realtà molte volte succede che quando lo vedono poi mi chiedono se lo possono proiettare nelle scuole, magari durante l'autogestione o con qualche professore particolarmente illuminato. Infatti, per esempio, domani sarà proiettato a Genova al Liceo Colombo, che è occupato. E perché piace? Perché a volte dicono. E questa cosa me l'hanno detta non solo i giovanissimi, ma ho fatto una proiezione bellissima nell'Aula Magna dell'Università di Torino. E dove c'erano tantissimi studenti, più di 300, e diversi di loro hanno detto questo lavoro colma un vuoto, perché effettivamente questi non solo sulla vita di Carlo ma anche sul movimento, perché mi hanno detto non è mai raccontato, cioè questo movimento che comunque da Seattle in poi è veramente, a noi non ce lo racconta e spiega nessuno, per cui sono molto incuriositi da questa cosa. E quindi capisco che magari a volte anche le finestre che si aprono sul contesto storico, per chi cioè, queste cose le ha vissute, le sa, magari risultano un po' ridondanti, però voi pensate a capire chi è come Ernesto, e quindi oggettivamente bisogna, secondo me, dare anche delle coordinate. Io poi ho fatto delle sintesi, a volte brutali, cioè nel senso anche la caduta del muro di Berlino, non mi metto certo lì a fare gli spiegoni, do due suggestioni, poi ai ragazzi la cosa che mi è piaciuta tantissimo, per esempio a Empoli, l'hanno proiettato in un liceo, poi mi hanno scritto, guarda, sai che abbiamo fatto i gruppi di lavoro e quelli che si occupavano dei blocchi e quello che si occupavano di indie media, cioè ho detto che figata, cioè bellissima questa cosa, perché è proprio quello, ho detto ragazzi, poi dopo, cioè qua c'è tanta roba sul fuoco e secondo me si può declinare in tante maniere come volete. E... sì, beh, sei bella questa cosa che hai detto, no? Non lo sapevo. E... no, una cosa, se per avere un altro spunto magari interessante, secondo me interessante, è che anche parlando con amici, coetanei che hanno visto il film, che magari conoscevano relativamente la storia, comunque non la conoscevano bene, o comunque sicuramente non conoscevano bene anche quell'infarinatura di rivendicazioni che c'è anche rispetto a quelle piazze, a quelle giornate lì, una cosa, uno spunto interessante, parlando con un amico che è riuscito a individuare, anche con la carrellata poi alla fine, con i titoli di coda di immagini, una sorta di filo rosso repressivo che in un certo senso parte là e che arriva qua, anche con quei rimandi alla zona rossa, eccetera. Secondo me in questo è efficace e lo rende molto fruibile anche a anche un ragazzo nato dopo il 2001, rende anche fruibile un'analisi sul contemporaneo. Quindi in questo, secondo me, è un'altra cosa che con i giovani particolarmente ha funzionato. Io volevo rimandare una suggestione, magari chiedere anche se era voluta o cercato o emersa personalmente. Il fatto che l'immagine che a me è arrivata di Carlo, ascoltato così, è il fatto che lui sia un ragazzo che vive in questo mondo, ma che non voglia essere di questo mondo, che è un po' quello che voleva con me. No, grazie per questa tua riflessione, sì, perché era proprio così. E, sicuramente lui e quello, secondo me, era quello che poteva, era ciò che poteva essere universale, in cui molte persone si potevano riconoscere. E effettivamente molte persone mi hanno detto, così, della cosiddetta generazione X, nati negli anni 70 e così, ma anche dopo, mi sono molto riconosciuto e tutti noi o siamo stati in parte Carlo o avevamo un amico che era come Carlo, cioè di questo essere scomodi al mondo, di sentirsi a disagio in questo mondo, no? E quindi sì, grazie, perché io era proprio quello che volevo dare, e secondo me questo suo stare al mondo è molto attuale, perché come dicevi tu, questo suo rifiuto di etichettare, di essere etichettato, di avere un atteggiamento dogmatico, giudicante, manicheo, cioè è fondamentale. E come dico sempre negli incontri, visto che in questo momento storico noi viviamo in un periodo dove invece è imperante questo atteggiamento, non solo a livello politico-culturale, ma anche personale, interpersonale tra le persone, divisivo, binario, cioè giudicante, assolutamente. Invece secondo me è fonte di ispirazione una persona che rifiuta invece questo tipo di atteggiamento, sia nei rapporti con gli altri e a livello politico, è fondamentale. E anzi, secondo me, che poi quello, se ci pensi, è anche un po' quello che si rifletteva sul movimento, che ha avuto tanti limiti. Però, nonostante le grandi diversità, l'eterogeneità di quei gruppi, così diversi che a volte erano proprio anche in contrasto tra di loro, però avevano un obiettivo comune, che era quello appunto di combattere realmente il neoliberismo è comunque un modo di produzione o comunque di anche culturale politico da contestare, e si faceva. Oggi è molto diverso, no? E io sono rimasta anche un po', devo dire, dispiaciuta, un po' depressa dalla mia visita a Berlino. Ho proiettato il film a Berlino perché cioè, da una parte mi ha fatto comparare la situazione in Italia, ed è per me fonte di ottimismo, cioè questo movimento che adesso comunque è in piazza per la Palestina, e oggettivamente la sinistra, quella di movimento, quella non, certo quella pseudo, che non, per me non è neanche di sinistra, comunque istituzionale, cioè la sinistra appunto dei gruppi, movimenti, sia compatta, perché comunque oggettivamente c'è un'unità che non si vedeva da anni, perché ci sono stati scazzi su un sacco di cose, insomma, è un, mi ridà un pochino di ottimismo, perché invece a Berlino mi hanno detto che lì il, invece sono completamente divisi, ma con delle faide incredibili, con compagni anche di lotta e che hanno fatto progetti in comune per anni, che non si salutano più per questa questione della spaccatura rispetto alla questione palestinese. E quindi ho detto no, vabbè, cioè, perché è triste, perché anche noi li abbiamo conosciuti, soprattutto anche in questi ultimi anni, anche rispetto alla questione dei Green Pass, cioè ci sono state delle... c'è delle divisioni violente anche, e questo è stato un male veramente, perché si poteva ragionare tutti insieme, portare delle istanze comuni, e invece vabbè, comunque è andata, adesso bisogna ricucire secondo me e ripartire. E quindi no, quello che ti dicevo appunto è questa cosa, no? Cioè, io sono molto affezionata anche a un certo punto, che è vero quando dice, e l'ho fatto ripetere ed è bravissimo Teo, perché Teo che impersona Andrea Burlando, che dice no, sai perché a me è Carlo, no? Perché se diventi anarchico, gli anarchici ti devono dire quel cazzo che devi dire fare. Il stesso vale per i comunisti, per i sindacati. A me Carlo ci sta sul cazzo sta roba qua, quindi noi avevamo le nostre idee, però non volevamo essere, erano così loro nell'auletta, moltissimi dell'auletta, io li ho amati, perché io anch'io sono un po' così, e quindi mi sono ritrovata moltissimo, e a me piace questo suo essere libertario in senso assoluto. Sì, esatto, sì, le teste sono divisive. Che non era uno di noi. Ha detto che erano banche a bestia. Io ero il disobbediente, avevo una coppa. Luca Casarini. Luca Casarini. Che non so. Ma cosa cazzo? Ma che è Luca Casarini? Ma non puoi dire una roba del genere. Allora ci sono le registrazioni. Ma mi c'è morto davanti, mi è morto. Eh sì, bravo. Io sono un disobbediente. Allora. Mi dispiace. Ho cazzo di merda. Ma che cazzo dici? Ma come c'è fatto una roba del genere? Luca Casarini ha detto questa roba. Ma che me frega di Luca Casarini? C'erano 20.000 persone, tu pensi a quello che dice Luca Casarini? Luca Casarini non era una persona così a caso. Ma cosa pensi? Lasciamogli finire l'intervento però, perché... No, scusami, sì, vabbè, era per sintetizare. No. Sì, sì. Grazie, no, infatti è vero, come dicevo all'inizio, è stato molto strumentalizzato Carlo, e quindi è stato tirato appunto, come dicevo prima, per la giacchetta, e quindi chi ne ha voluto fare un mito appunto del militante martire, chi invece, ed è vero come dicevi tu, è stato detto, anzi comunque ci sono stati anche dei centri sociali che hanno detto non è uno di noi, cioè oggettivamente, perché quando all'inizio si pensava che fosse un black bloc, oggettivamente queste cose sono state dette, quindi perché è stato strumentalizzato fin dall'inizio secondo me, e questa è stata la cosa che poi ha ferito tantissimo anche di più gli amici più cari, perché e quando io ho iniziato a fare questo lavoro loro erano molto scettici, sì, erano diffidenti giustamente, perché avevano visto Carlo essere trattato in tutti i peggio modi, e dove mi hanno detto nessuno dei Carlo raccontati era Carlo poi alla fine, Quindi, però devo dire che è stato anche molto bello, e, perché è stato un lavoro molto lungo di entrare in confidenza, e poi devo dire che generosamente loro mi hanno raccontato tantissimo di Carlo, e alcuni di loro sono diventata amica poi, perché poi ci siamo trovati moltissimo in sintonia, e poi gli ho fatto vedere anche il film, avevo molta paura, e loro stessi avevano paura, perché poi era per loro, immaginate com'è, una ferita che non si riapre, non si richiuderà mai. Però mi hanno detto, alcuni mi hanno detto, sai che Carlo era proprio così. E poi mi ha fatto piacere anche perché quando abbiamo ricostruito la l'auletta o gli asinelli, e lì gli sono scese le lacrime, perché hanno detto Madonna, era veramente così che vivevamo, nonostante sia una sintesi, perché poi c'erano tante altre cose da dire sull'auletta e sugli spazi occupati, però insomma sono stata contenta di essere riuscita ad assorbire tutti questi loro racconti, queste loro sfumature, questi loro umori, e spero insomma di essere riuscita a raccontarli. E poi comunque anche grazie a lui, perché come dicevo anche ieri, alcune scelte anche relative proprio a come girare alle situazioni e anche alla riscrittura l'ho fatta anche dopo aver scelto Ernesto. Per esempio, all'inizio ero indecisa se fare le parti di finzione, ieri lo spiegavo a quello spettatore, perché è sempre un rischio comunque mettere della finzione in un documentario, ma quando ho fatto le prime riprese con Ernesto e lui veramente era incredibile, allora ho capito che avrebbero funzionato, che erano belle, era tutto bello, cioè mi piaceva tantissimo quello che giravo, e lui era bravissimo, era proprio quello che avevo in mente di fare, e tra l'altro c'erano anche proprio, con lui è stato bellissimo lavorare, perché a parte che è molto in ascolto, e poi c'era ormai dopo un po' c'era questa sintonia, per cui non ci avevamo neanche bisogno, davvero io non avevo neanche bisogno di spiegarlo, a volte mi capita, non sempre, però con le persone con cui lavoro nei documentari a volte si crea talmente tanta sintonia che non ho neanche bisogno di spiegare cose, dico una cosa, uno sguardo, e lo coglie lui. Poi è molto sensibile, quindi molte scelte sono state date anche dal fatto che c'era lui, c'era Ernesto, e questo film si è riuscito e anche molto grazie a lui. Posso farti una domanda? Oggi siamo in una platea amica, volevo sapere se è stato presentato il film anche in non platea amica, cioè persone normali, sì, ragazzi eccetera, perché per noi ad esempio che siamo schierati, eravamo lì a Genova e non eravamo solo, era un movimento globale, no? Ridare questa immagine d'umanità da parte di un ragazzo che indipendentemente dove ha manifestato, se era il Black Bloc con vari libri, con alcuni disobbedienti o con i Cobas in un'altra piazza ancora, quindi uno dei blocchi tematici, spesso e volentieri siamo proprio noi che strumentalizziamo, no? Era un Black Bloc, no? Era la Dura Bianca, no? Era gli altri. Cosa dicono di Genova? Beh, hai dato oggi una versione che ha riportato finalmente l'umanità, cioè indipendentemente chiunque ha manifestato a Genova, chiunque poteva morire quel giorno, aveva un aspetto umano, e Carlo rappresenta quello che poteva essere ovunque, cioè poteva accadere in un altro blocco, per dire. Però nessuno ha mai raccontato o ha ridato umanità a quello che era quella moltitudine di manifestanti, indipendentemente dalle forme, dai modi con cui manifestavano. Grazie. Ti devo dire che questo, come dicevo all'inizio, questo documentario ha girato sia per spazi autogestiti, come dici tu, amici, e quindi vabbè, però anche nei cinema tradizionali. Quindi sono venute fuori anche delle riflessioni che magari sono interessanti, anche perché sono diverse magari da una platea che magari è anche più preparata su quei fatti che magari c'era. Ti devo dire anche che secondo me anche nei cinema certamente chi va decide di venire a vedere un film comunque su Carlo Giuliani e quel movimento già secondo me un po' un po' amico. No. Poi vabbè, ci sono stati anche dei momenti in cui in realtà, cioè a un certo punto al Cinema Mexico è intervenuto uno e lì si capiva che erano tutti perché ha detto no, però quando uno dimostra, quando uno manifesta in maniera violenta, però poi oppure anche un'altra volta mi hanno detto sì, però le forze dell'ordine alla fine comunque quando perché poi salta sempre un po' fuori la questione dei black bloc allora perché cioè comunque erano piazze violente, allora la repressione, insomma tutto quel gioco che sappiamo da più di 20 anni, no? Però ti dico, in realtà quello che tu dici, cioè della questione del ridare umanità, corpo, nel senso proprio nel corpo, anime delle idee a Carlo e a quel movimento, è una cosa che comunque piace in generale, anche perché sia chi magari era lì o ha più informazioni, o anche invece chi viene solo per curiosare il film, perché è una cosa che non è stata trattata, cioè nessuno sa chi fosse veramente Carlo Giuliani, e come dicevo all'inizio, raramente si parla poi del movimento in sé, cioè come è nato le idee e si segue appunto la sua evoluzione, non tanto la sua repressione a Genova, perché ci si concentra quasi sempre, no, su quello. E quindi questo aspetto qua ti devo dire che sia appunto chi è più informato e chi meno, chi è coinvolto e chi meno, ho notato in tante proiezioni, perché ormai sono tante, che è uno degli aspetti che piace di più, perché è una cosa tra virgolette nuova, cioè nel senso non era ancora stata fatta, ecco, quello devo dire che sì. Poi vabbè, poi appunto ti ripeto, è comunque un film che si chiama Di vita non si muore, film documentario su Carlo Giuliani, e Un altro mondo è possibile. Quindi io posso un'altra cosa, io trovo che questo film non avesse per niente, questa è la mia lettura. Di questo non abbiamo parlato noi quando ci siamo confrontati, prima di decidere di fare la proiezione. Io non credo che questo film avesse l'ambizione di voler spiegare delle cose, di voler schierare, di voler far appartenere qualcosa o qualcuno. Ci ha dato uno sguardo differente che non conoscevo, ma quella persona, come dicevi prima, un Carlo Giuliani, io ne ho conosciute non so quante. Cioè, è proprio una modalità di vita dove non ti sta bene quello che c'è e te ne vuoi fare un'altra di storia, e questo qua gli hanno sparato, cioè semplice. È vero che poteva essere chiunque, è verissimo, e chiunque abbia tentato di appropriarsi nel bene o nel male, contro o a favore di questa cosa, ha commesso una schifezza pazzesca. Lì è successo un fatto, e con tutto quello che c'era prima e c'è stato prima, è stata forse una naturale conseguenza, perché poi la telefonata dei due poliziotti l'abbiamo sentita tutti, e quante altre cose. E poi comunque c'è un buco nero, quello che dicevi dei ragazzi più giovani, c'è un buco, ma questo fa parte proprio, uno, del massacro mediatico delle cose, quindi tireranno i palloncini col virus di HIV, voglio capire come si fa, visto che all'aria aperta perde la sua, cioè, quindi volete dire, possono inventare qualunque cosa, e comunque un lavoro sotterraneo poi arriva. Quella cosa delle risate finte registrate dimostra un periodo in cui, a forza di cose di un certo tipo, le sappiamo. Non facciamo retorica, questo film non è retorico. Questo film mi mostra un'occasione di sguardo su quella figura, su quella persona. E poi ognuno di noi ci trarrà quello che vuole, però nessuno si può appropriare di Carlo Giuliani. Mi sembra chiarissimo nel film. Alla terza volta ho questa idea. La terza volta questa. Grazie. Noi di solito concludiamo dicendo questa cosa, che essendo che è un film autoprodotto, autodistribuito, la cosa che conta di più è il passaparola. Quindi se vi è piaciuto, passate parola, c'è se volete sapere dove poi girerà ancora, insomma quali sono delle curiosità sul film, c'è una pagina social che si chiama come il film, Di vita non si muore. E poi se no invece c'è il sito che dove c'è il calendario, semplicemente, che è www.ghirofilm, ghiro come l'animale che dorme, ghirofilm.it. E quindi se volete avere aggiornamenti sulle altre città in cui viene proiettato, comunque non vi nascondo che io spero che piano piano perché 2 mesi e mezzo che sto girando e sono stanca, quindi la prossima comincerò a mandare il Nesto adesso. Però se volete mandarlo nelle scuole, scrivete a info@ghirofin.it e lo diamo a tutte le scuole, a tutti gli studenti che lo vogliono senza problemi.